Io che l'ho capito dal principio, il motivo per cui ora scrivo, che ho fallito il mio suicidio, però sono recidivo. Vivo sempre tra le merde per essere positivo, mi serve dell'erba verde come il Resident Evil. E fra perciò mi vedi a pezzi, ogni giorno patisco un postumo, per questo scrivo pezzi ma penso ad un disco postumo. Ed ogni tesi che postulo si scontra con i codici e mi elimina dai 12 come giù dall'apostolo. Ogni mia rima un bossolo, ci sfondo le barriere, m'ho lasciato il cuore in fondo alle macerie come in Kosovo. Parlano di un mondo per bene anche se non possono, poi quando arriva il conto se iene ti disconoscono. Sto come Foscolo e mi imbosco tra le catacombe dentro un bosco, quando il cielo è fosco e la retata incombe. Resta il posto dove sto nascosto, chiacchierata e bombe, tutto a posto, ma l'altra giornata si dilata e fonde. Non c'avevo niente in comune con te, che c'hai? Occhi, vedi se è bello, io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Non c'avevo niente in comune con te, che c'hai? Occhi, vedi se è bello, io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Vivo nel degrado, come gli sniffa colla danesi, tiro un dado, fumo amnesia, mi sveglio con la paresi. È uno tsunami di merda, noi ci nuotiamo arresi, ma questa roba ti dà più calci di paresi. Dormo poco da mesi, esco poco, penso sempre il doppio frate, come due gemelli siamesi. Sogno il kit di arnesi con cui torturare i banchieri e gli uomini che governano i più grandi paesi. Cerco prove giù nel distretto 9, mi metto dove non arrivano le lenti del rilevatore. Sono drastico, aspetto il mio onomastico, mi faccio saltare col plastico a casa del senatore. Quindi comincio a dare bastonate sulle palle morsi al collo di chi ci vuole coi codici a barra. I bozzi invece ci troveranno con le facce da stronzi. È Molotov per chi deciderà di opporsi. Non c'avevo niente in comune con te, che c'hai? Occhi, vedi se è bello, io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Non c'avevo niente in comune con te, che c'hai? Occhi, vedi se è bello, io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. Io c'ho gli occhi rossi e mi appena andata a puntare il cervello. E anche se il mio nome cade in continua contraddizione, è come se charade continua contraddizione. E c'ho vocabolari rari, tagli e quaglie, vari brani, e tra ste crudi impari nari, non ho più avversari.